All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. E ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Bravi! Li ho pagati per questo applauso. Sì, Andreina, pure così. Quello che ha detto lei va benissimo. Ricordiamo il sito www.ilbac.it. Cliccate la cena dei regini per seguire il programma, partecipare e scoprire quello che succede nel backstage, tra virgolette. Questa sera tantissimi ospiti da Reggio e non solo. Ci è venuto a trovare Francesco Lo Giudice a presentare il suo ultimo lavoro e ce lo introdurrà dopo. Adesso una piccola anteprima del suo lavoro con Telepop Music, Don't Look Back. Alla cena dei regini, vi è piaciuto questo pezzo? Sì. Non l'avete sentito? Ciao. Chiedevo ai ragazzi a casa, non cerchiamo, facciamo radio verità noi, ad esempio radio verità vuol dire che questa sera c'è stato un piccolo problema logistico per cui sto facendo cucina da un lato, poi vengo qua, registro, facciamo avanti e indietro, faccio one man show stasera, però andrà bene, dico ai nuovi. Solitamente non faccio così, mi siedo e mangio, purtroppo questa sera è così. Ragazzi, iniziamo con il piccolo angolo della posta e facciamo un applauso perché abbiamo un angolo della posta. Vi ricordo che potete comunicare scrivendo a cena@delbac.it per segnalare le vostre storie, anche i vostri motivi per cui vorreste essere invitati alla cena e non vi ho ancora invitato, perché accetto anche questi tipi di segnalazioni. Salutiamo caldamente Elisa da Medellin, Colombia, la famiglia Stellario che ci segue da Perth in Australia e ci scrivono felici di seguire il programma dei regini. Wow. abbiamo le classifiche fatte da noi che vorremmo mandarvi presto. Perfetto. Vogliono collaborare, ci fanno la classifica, li salutiamo tutti. È Gabriel Giacinto dal Messico, che lui fa l'elettricista per questa commissione di elettricità, che penso che sia una struttura pubblica tipo la nostra Enel. E ci ascolta da lì. Lui doveva salutare già la puntata precedente perché ci aveva già scritto da prima. Un applauso a questi ragazzi. Non troppo entusiasmo perché poi mi si emoziona. Ricordando il sito www.ibac.it, passiamo a parlare delle cose fatte nell'ultima settimana. L'ultima settimana è stata particolarmente importante la nostra partecipazione alla Fiera della Decrescita a Gallico, un evento al quale partecipano tutti i produttori locali di cibo, comunque cultura a chilometro zero. Quindi noi ci spacciamo come un pecorino a chilometro zero e partecipiamo anche noi. Noi siamo GDR a chilometro zero. Quindi abbiamo portato il nostro stand con le spade e via dicendo. Abbiamo fatto giocare dei ragazzini che hanno assaltato lo stand dopo i primi minuti. Per la gioia di Andrea che non aspettava altro. E chi ti è venuto, e chi ti è venuto a trovare? Il nostro caro Jimmy. È venuto Jimmy. Jimmy la persona, non è il pollo gigante da guerra. No. Proprio Jimmy la persona che è venuto a sfidare i ragazzini e toglierteli dalle grinfie, quindi tanto meglio. Per una volta. Tra l'altro con loro c'è un bel discorso perché volevano riproporre la cosa, ci hanno invitato nuovamente, quindi magari mese prossimo. Sì, per me sono sempre. A mese prossimo a me pare che c'ho. Voglio dire. Devo andare. Devo andare a lavare le calzini in Colombia. Sì, te le inventi con calma. Dai, tranquillo. In Colombia perché c'è Elisa che ci segue, capito? Mica fesso. Ciao Elisa. Non è che vai in Messico dal signor Gabriel Giacinto. Vabbè, ma la Colombia è più vicina. Certo. Sto disgraziato. Ma una stanzetta per gli ospiti. Che ti inviti a casa. Ti autoinvita. Scusate. Quanto è stata emozionante venire alla Fiera della Decrescita? Sì, praticamente abbiamo fatto da babysitter a questi bambini. A un certo punto non si avvicina più nessuno perché vedeva i bambini e diceva ecco questo per i bambini, lasciamoli giocare. È bello portarsi persone che hanno un'immagine così costruttiva di quello che facciamo. No, cioè diciamo... mi porto mio padre e dice no, lascia perdere tutto e vai a fare lo scemo con le spade in giro. Allora. Che la cosa migliore è stato quel ragazzo che è venuto a dire ha cominciato da poco a giocare di ruolo. Pensavo di essere il solo, pensavo di essere un po' disadattato, invece trovo altre persone come me. Disadattato. Effettivamente. No, siamo disadattati. Ma io ho detto, hai trovato il primo dei disadattati, perché dietro ho scritto un regolamento di gioco e te lo proporrò. Grande entusiasmo suo, sei emozionato, è stato bello anche questo. Abbiamo conosciuto persone nuove che vorranno venire a trovarci e visitare l'Aus nei prossimi giorni, insomma saremo pronti ad accoglierli. Adesso qui ho messo questa canzoncina che ci andiamo ad ascoltare, che è molto particolare. Ce l'ha mandata un ragazzo di Reggio, il suo nome d'arte è Mood Project. È un pezzo in assoluta anteprima perché il suo disco uscirà ad agosto, luglio-agosto, quando verrà alla cena a trovarci. Allora ci ha mandato questo pezzo in anteprima per la cena, facciamo un applauso. Il resto quando ci vedrà a trovare, ragazzi. Non bisogna sempre. Amod Project con November Dream. Thank you. Eccoci alla cena dei regini. Vi è piaciuto questo pezzo? Suppongo di sì. Voi non rispondete, mi raccomando, sto parlando con i miei amici a casa. Suppongo di sì. Se non vi è piaciuto, pazienza, quando verrà lo potrete insultare con calma. Ma adesso parliamo delle cose da fare. Innanzitutto ricordo, se volete seguire la trasmissione, quello che facciamo, intervenire con noi, potete farlo tramite www.ibac.it e cliccare la cena dei regini. In questa settimana ci aspetta la ricerca delle location nuove, ovvero andrò in giro, no? Andrò in giro a vedere posti e quant'altro dove fare nuove serate di gioco. Ci aspettano in questo mese ben 3 serate di gioco di ruolo dal vivo, e andrò a vedere in particolare un campo dove si dovrebbe ambientare la nuova serata, il nuovo pomeriggio di Camelot, quindi in ambientazione fantasy medievale. Ma il prossimo evento in programma il 7 luglio è la Tanabata Night. Questa serata interamente dedicata al sogno, che riprende il rito orientale della Tanabata. Praticamente la Tanabata è la celebrazione di un demiato evento. Sarebbe tutto parte dalla leggenda di Vegaltair, che sarebbero due appartenenti al cerchio celeste dell'antica Cina, anche dell'antico Giappone. Si parla di Vega, una giovane ragazza che tesseva gli abiti degli dèi, al quale il padre decide di appunto, che per tutto l'impegno che dava gli concesse di sposarsi con Altair. Purtroppo dopo il matrimonio, i compiti che i due neosposi si erano assegnati avevano cominciato a scemare. Bello. Faccio il sottofondo e io e quindi quindi il padre, che si chiamava Tentei, visto che la figlia non produceva più gli abiti e lo sposo non guardava più al bestiame, decide di riderli. La Vega si disperò parecchio e il padre Tentei, in un atto di bontà, decide che il settimo giorno del settimo mese loro possono incontrarsi. Quindi ogni anno, da ormai secoli, esatto, praticamente si dice che si crea un ponte nella Via Lattea, che sarebbe il fiume che divide i due sposi, e che loro in quella giornata possono rincontrarsi. È bellissimo. Quindi è una serata dedicata al sogno, esatto. Però lo intendo principalmente come sogno matrimoniale. No, ma anche no, principalmente al sogno, perché alla fine ci sono i tankazu, che sarebbero dei desideri, i sogni, certo, che le persone che scrivono in forma di poesia o anche in prosa, e che, esatto, vengono poi o bruciati o comunque scritti affinché Vega e Altair possano leggerli e farli avverare. All'albero. Esatto. Quindi i sogni sono presenti, perché alla fine il sogno della persona, come quello loro che si è avverato, loro cercheranno di farlo avverare entro 3 anni. È bellissimo. Questa cosa ha toccato anche voi, ma anche me quando l'ho sentito, ho deciso perché non farne una serata qua. Di tutto questo ovviamente faremo l'albero con i messaggi, ma soprattutto, con tutto rispetto per i giapponesi, l'Angry Birds umano. Cioè, che è una cosa che a me esalta. Cioè. Quindi faremo questo albero dei messaggi, dove appendere, scrivere e appendere i desideri, i messaggi e via dicendo, che i migliori, più profondi, più divertenti saranno letti durante la prossima puntata della Cena dei Regini. e in più una serata di giochi molto particolari, ispirati un po' al tema del Giappone dell'Oriente, ma comunque relativamente divertenti. Uno sarà questo Angry Birds umano, la rivisitazione in chiave reale di Angry Birds, il famoso gioco per telefonini e quant'altro. Poi faremo lo Shanghai gigante con enormi pezzi di legno per giocare a Shanghai, e insomma sarà tutta una... Ci riempiremo di sushi? Sushi, speriamo. No, che chi vuole può anche partecipare in cosplay? Ovviamente, la serata è cosplay qui, con dove potete portare cosplay, costumi tradizionali come il famoso yukata e quant'altro. Questa cosa è bellissima secondo me, perché è anche un evento veramente particolare. Altro da dire, nulla, perché comunque se volete altre informazioni www.back.it trovate tutto, e poi ci saranno gli altri live. Praticamente faremo un live a settimana, addio piacendo, perché alla fine dobbiamo rivedere alcune cose, ma penso che ce la possiamo, ce la faremo sicuramente. Ragazzi, detto questo, andiamo a prendere la pasta e mettiamo i Circa Vite con Shine. Cena dei Regini, ricordo www.back.it, cliccate la Cena dei Regini, è importantissimo per venirci a trovare, comunicare con la trasmissione, in particolar modo con me, e ricordo potete anche mandarmi un messaggio per chiedermi perché non mi ha invitato alla Cena dei Regini, visto che ho fatto questo e quest'altro della mia vita. Fatelo, perché è importantissimo. Nostro ospite, ecco, potreste essere al suo posto in questo momento, ragionate. Il nostro ospite stasera è Francesco Lo Giudice, che ci porta il suo lavoro. Un applauso, ragazzi. Buonasera. Buonasera. Francesco, innanzitutto presentiamo te stesso, parlaci di te e sì, tagli. Allora, innanzitutto ti ringrazio per avermi invitato in questa tavolata di bella gente. Niente, io sono venuto qui per presentarti il mio disco. che abbiamo fatto con un ragazzo di Messina che si chiama Claudio Nobrich, attivista, rapper, artista, che ha anche un background abbastanza massivo. Niente, io faccio il beatmaker, quindi mi occupo di produzioni musicali principalmente, però non disdegno nemmeno fare il rap. Quindi, ma principalmente il tuo, diciamo, lavoro e il tuo impegno musicale è creare le basi. Faccio musica strumentale, ho fatto anche altri dischi dove sono completamente strumentali, quindi senza voce sopra il beat, la base. Dall'inizio il tuo arrivo a questo genere musicale, come è iniziato? Quando è iniziato? Giovanissimo? Sì, abbastanza. Ormai, facevo le scuole medie, praticamente un giorno camminando con la bici, sai, quando sei piccolo, in giri, ho visto i ragazzi che ballavano la breakdance in via Marina. Al mitico Marmo. Al marmo. Posto che comunque mi ha formato, mi ha cresciuto. È bellissimo. E mi ricordo che mi sono fermato con la bici lì, ho detto, da domani vado lì. Chiaro. E allora il giorno dopo ho iniziato ad andare a frequentare questi ragazzi che facevano il breaking. Ho iniziato a ballare per 4 anni. E ti sei avvicinato a questa cosa? Mi sono avvicinato a questa cosa perché comunque il breaking, la breakdance si balla principalmente su musiche come il funk, il soul, con tutta la buona musica degli anni 70, che comunque io tuttora utilizzo per campionare. Beh, quando si parla di musica campionata mi ricorda il vecchio L'Amiga, tipo quando si facevano Basilio, le tracce. Basilio faceva perché le io sono old school, no? Io sono ancora anni 90. L'Amiga 500. Con L'Amiga facevi il tracker cosiddetto e mettevi le tue basi. Tu invece adesso utilizzi per fare allora queste... sì, io ho iniziato che avevo un PC che si surriscaldava ogni 5 minuti, quindi ogni 5 minuti più o meno dovevo salvare il progetto, riavviare il computer, quindi una fatica fantastica. Poi col passare a noi succede ancora quando andiamo a montare i video all'house, quindi questo mi deve fare riflettere. E poi piano piano, crescendo e anche insomma avvicinandomi maggiormente a queste produzioni musicali, ho ampliato anche la mia attrezzatura per produrre le mie macchine. Non ho questo granché di studio illieco come fossi Dr. Dre, però compongo con una tastiera muta MIDI, dove quindi suono le robe che campiono. Okay. In coincidenza con un pad, è un ferro vecchio abbastanza storico, si chiama Kai 950, è abbastanza vecchiotto, un campionatore per la sua età. Per ogni artista ha le sue ispirazioni. Tu per fare questi lavori hai un momento particolare? Il momento più bello, penso, della produzione penso che sia quello di scegliere il disco, andare a comprare il vinile. Quindi prettamente se uno deve fare dei beat hip hop, comunque deve produrre musica hip hop, musica black, deve necessariamente campionare da vinile. Quindi sì, la parte più bella è la scelta del disco, quindi la creazione di un gusto proprio musicale. E poi vabbè, anche le mie ispirazioni nel campo hip hop a livello americano e italiano, nella produzione, sono i più grandi. Andiamone dopo. Adesso, dalla tua ispirazione sei arrivato a fare questo disco. Sei tracce, sono che vedono anche le collaborazioni di altri artisti. Sì. Questo disco si chiama Rookies EP. Il Rookies cos'è sostanzialmente? È quel giocatore che proprio dà il proprio esordio, ma da un livello completamente amatoriale entra più o meno nei pro. Quindi fa il suo esordio in questo modo. E quindi diciamo che ci siamo fatti un bel viaggione col ragazzo per chiamarlo in questo modo. È stata anche una scelta un po' involontaria. E sì, sono 6 tracce, il disco è molto corto, sono 12-13 minuti di musica. E vedono le partecipazioni di Dani Tarantino, del DRT Clan, che è un grande amico di Claudio, un fratello di Claudio, di Scili, che anche lui forse è un grande compagno di viaggio di Nobrigi, in quanto vivono assieme, ci dividono anche la casa. E poi della leggenda ESA, il presidente, comunque penso sia noto a tutti gli amanti della cultura hip hop e del rap italiano. Il disco è stato prodotto dalla neonata etichetta Real Street Hip Hop, di Simone Lucchini a Voghera. Tra l'altro, perché è appena nata questa etichetta, lui, il ragazzo Simone, aveva iniziato facendo serate lì in provincia, comunque lì in Lombardia, e poi ha proprio deciso di mettersi un'etichetta, dando fiducia sia a me che a Claudio, che abbiamo esordito con questo lavoro. Okay, quindi etichetta di Pavia, Simone Lucchini, Real Street Hip Hop. E voi siete di qua, quindi una sono cosa... di Reggio, Nobrigi e di Messina. Quindi una cosa abbastanza distribuita. Per chi come me è praticamente ignorante in materia, cioè io rappresento un po' l'uomo della strada in questi casi, a livello italiano, il panorama di questo genere musicale, di questo stile, come... Sai, ormai l'hip hop ultimamente nel 2013 è diventato un po' il nuovo pop, nel senso che, sai, grazie alla televisione, i mass media, poi magari la gente ci arriva molto più facilmente rispetto a come ci si arrivava una volta. Oggi è molto più facile anche tramite internet. Ma perché, spiegando il mio livello di beata ignoranza in questa cosa, tu hai fatto delle collaborazioni con Mad Simon? Ho collaborato un po' con tutti, sai, facendo le basi. Io l'ho totemizzato a lui come rapper, cioè nella mia... cosa, cioè nella sì, mia io mente rappo anche, eri solamente quel discorso, non principalmente, magari non prima principalmente. Sì, però ora mi sono dedicato quasi completamente alle produzioni. Sì. Per fare questo basi. Disco quanto tempo hai impiegato? Allora, diciamo che per le basi, molte delle basi erano già state prodotte, quindi magari hanno dovuto subire delle piccole modifiche, dei piccoli arrangiamenti. Ok. Mentre tra le ultime basi, poi ce ne sono due su sei che sono di recente produzione, sono la numero 4 e la numero 6. Tipo 3 mesi. Sì, diciamo che per curare le basi ci ho messo poco. Claudio ha registrato tutto, anche ESA, Dani, Scili hanno registrato tutto in poco tempo. Mentre poi il lavoro più lungo è stato quello di missaggio e mastering del prodotto, comunque definisce la qualità. A livello mondiale, diciamo, in generale, in questo momento, un maestro dell'hip hop, dovendo dare un nome oppure dei nomi particolarmente di spicco in questa cultura, quale si potrebbe indicare? Ti posso un punto di arrivo per chi incomincia. Ti posso parlare per preferenze. Vai. Sì. Dal punto di vista delle produzioni musicali a livello mondiale, io penso che le mie principali ispirazioni siano J Dilla e Madlib, che comunque entrambi, cioè Madlib viene molto dalla scuola di J Dilla è proprio il capo, mentre dal punto di vista del rap americano, diciamo che ce ne sono molti che mi piacciono, però i miei preferiti sicuramente sono Percy P, MF Doom, Juggernaut, tutta quella roba comunque abbastanza vecchiotta e anche che gira adesso. Quindi comunque c'è un bel... Sì, c'è la scena underground, è fortissima in America, ma anche il mainstream, voglio dire, sono molto, molto attivi. Ormai è fantastico, perché è una cultura che alla fine è molto urbana, molto, molto moderna, molto contemporanea. Sì, ormai anzi ha perso quel tocco di urbano che c'aveva, secondo me, visto. Certo, ormai, sono tutti. Ormai vai da Maria De Filippi. Poi magari, non so se hai visto sto ragazzo che è andato da Maria De Filippi, Moreno. Non so chi sia. Ormai io vado al supermarket, mi fa la cassiera, ma tu fai rap come Moreno. No. È ancora viva questa cassiera? No. Non lo so, guarda. Bellissimo. Cioè questo tizio è andato da Maria De Filippi. Ha vinto Maria De Filippi e... Ha vinto Maria De Filippi? No. Magari, io non guardo la TV da 5 anni. Guarda. Ha vinto il programma di Maria De Filippi. Speravo vincesse anche lei. Però ha vinto solo il programma. Il problema è che te la passano in radio in continuazione sta cosa. Io non l'ho mai sentito. Ma come senti? Ti conviene? Cantacela brevemente. Vai. No. E comunque ma parte tipo... da che confusione sarà perché ti amo e fa la qualsiasi. Ma è tipo quei rap tutti in rima, no? Sì, è quel rap in rima che tipo facevamo alle scuole medie, tipo. Esatto. No, vai. Non lo so, non lo so. Tipo il rap di Moreno. Ma amico, ma sei scemo? Bravissimo. Hai fatto già una rima migliore di quelle che fa di solito. Grande, quindi, ho un futuro anch'io. Il problema sostanzialmente è questo, secondo me, la presenza di questi fenomeni, personaggi che poi non rispecchiano nemmeno a lungo andare quella che è la cultura. Ok, perché nella cultura vorreste è di strada, è lasciarla di strada, rimane lì. Nessuno dice che non ci puoi magari svoltare qualche soldo. Però i principi fondamentali della cultura hip hop sono legati alla vita di strada, al rispetto. Cioè, insomma, l'hip hop per me più che le quattro discipline sono divertimento, conoscenza, stare insieme e amore. Bello. Poi questo viene dopo. Dagnonato, una svolta storica in questo genere musicale è quando Run DMC e gli Aerosmith hanno fatto roba abbastanza crossover. Lo vedi anch'io qualcosa? La porto a casa. Cioè, quella è stata poi l'inizio del new metal, diciamo. Sì, diciamo che quella ha dato il via al crossover. Ormai l'hip hop lo fai sulla dubstep, sulla musica elettronica, lo fai sul funk, lo fai a 100 bpm come lo fai a 60 bpm. Quindi diciamo che fantastico. È un'unione di diversi stili. Ragazzi, era Francesco Lo Giudice. Ti ringraziamo di essere venuto qua. Grazie a te, grazie a voi. E speriamo. Buona serata. Ma ci lasciamo con questo pezzo che presenta lui. Ci tengo anche a introdurlo. Vai. Che è l'estratto video che è uscito questa mattina. Dal disco appunto Rookies, che sono Nobridge e Danny Tarantino al microfono, il pezzo si chiama Catch a Fire, il beat è mio. Vai. Vai. Cina è questa musica che si libera, che si abbina alla mia vita ibrida. Da peccatore so, tradisco la mia umanità quando fra le mani ho l'iPhone, right on time. Più colpi di parole che in un film di Muay Thai. Ai ai, it's a family affair. Non ti offendere, ho fretta di andare. Catch a fire, you don't fuck with me. Militanti della vita hardcore con connotati strambi e la Jeep. In giro ci guardano e pensano, ma che cazzo saranno sti qui? E chi si credono? Io con Daniele senza freno, no. Voi che volete, oh, non ci reggete, quindi preferite indicarci come il male che non ammettete in voi. You know, no Brista, Danny Tarantino, DRT Clan. Yeah, noi non ci ammazzate, you know. Yes. I want you, baby. Catch a fire. ragazzi, www.ilbac.it, cliccate la cena dei Reggini. Ancora una volta assegniamo il nostro premio NASO. Applauso. Abbiamo ispirato da un blogger che impiegò un'intera pagina del Fatto Quotidiano per screditare la Calabria parlandone come una contrada Amish del Kazakistan. Da qui è nato il premio NASO. Però, ragazzi, abbiamo un nuovo vincitore del premio NASO. Vince il premio NASO un anonimo autore che ha scritto la lettera Como vi combinastu e l'ha mandata a questa testata online, dove ha scritto tutta questa missiva abbastanza lunga che dà ai Reggini in particolare. Inizia subito: belli, cretini, scimpanzé, pettegoli, e continua su questa linea, perché è un anonimo che ha scritto che è venuto in vacanza a Reggio, ha visto questi problemucci che abbiamo in questo periodo, tipo la spazzatura e via dicendo, ovviamente problemi, devo dire, effettivamente che stiamo valutando, che non smentiamo del tutto. E comunque lui ha scritto questa bella lunga lettera di tipo: che schifo siete, avete perduto onore e appartenenza, ululate riti collettivi su Facebook, che schifo. E allora, anonimo, vienici a trovare, hai vinto il premio NASO e quindi la partecipazione alla prossima riunione del Reggini. Lo mandiamo alla Riviera questo e vediamo di rintracciarlo. Siete contenti? Un applauso. Perché Reggio fa schifo, perché io sono triste. Dovremmo fare dei trofei tipo in film. Ma guarda, Fimo viene e si mangia una fetta del mio rollè che era buono. La caponatina. Detto la caponatina. Guarda, non me l'aspettavo, ma è buono. Come non me l'aspettavo? Questo è un successo sicuro. Cioè, da quando l'ho fatto, che forse era la terza o quarta cena, cioè è sempre andato a rubo. Io non l'ho mai assaggiato. Oggi è rimasto. Cioè, non l'ho mai visto in realtà. Ma anche l'altra volta era rimasto. No, l'altra volta no. Ma c'era rimasto come di tua mamma. Di mia madre, vabbè. In realtà basta su chi lo mangia, non è che lo mangia. Era perché avevamo preferito lui per fare, per favore. Perché se prendevamo quello di mamma, no, giustamente. Ma c'era un casino da mangiare quella volta. No, avevamo. Vabbè, altri tempi, ragazzi, non parliamo di queste cose stasera. Nel lontano mese scorso. Soprattutto adesso l'angolo delle notizie in compagnia dei commensali e del nostro uomo della strada. Saluta uomo della strada. Salve. Ricordiamo, uomo della strada, un anonimo reggino che rappresenta. Perché se lo sapessero chi sono, perderei il lavoro, non troverei più amici. Che commenta con noi le notizie, rappresenta appunto l'uomo della strada, l'uomo qualsiasi, l'uomo così. Allora, prima notizia: donna impiega mezz'ora a parcheggiare. È successo a Belfast, un gruppo di ragazzi ha deciso di riprendere, ha fatto un video. Allora, il video è iniziato 15 minuti dall'inizio della manovra, è durato altri 15 minuti. E durante il video i ragazzi hanno chiesto esplicitamente di aiutare la signora a parcheggiare, però lei ovviamente ha rifiutato. Quindi la notizia è che bello. A Belfast è una notizia che una donna impieghi mezz'ora a parcheggiare. Cioè, è normale, non è che io voglio. Ora non è che. Ma no, comunque se uno va in internet. Ma infatti apposta lui vede, è anonimo, vede, io posso fare le battutacce maschiliste. Vede proprio sì, una donna anonimo, che cerca di parcheggiare. Naturalmente dopo vari minuti di tentativi di parcheggi scende quello dietro, va dalla signora, la butta fuori letteralmente dalla macchina, sale sulla macchina e parcheggia in un secondo. GTA. Abbiamo capito, la soluzione è giocare a Grand Theft Auto e ispirarsi così. Ci sono anche uomini che fanno danni, mettiamolo chiaro, sempre su YouTube vai, cerca parcheggi pazzi e vedi uomini che hanno tentato di parcheggiare ad esempio dentro un parcheggio all'interno al palazzo. nel prendere la mira si sono levati prima la fiancata, poi sono usciti cercando di diciamo mettersi dritti e hanno levato l'altra fiancata e poi, non contenti, una volta che hanno preso giustamente la mira, sono arrivati fino in fondo piccando la macchina e facendola diventare 40 cm più corta. Vabbè, c'è di tutto al mondo, giusto? Comunque non supera il parcheggio di Gini. Sì, l'abbiamo detto l'altra volta. Noi a Reggio abbiamo questo. C'è stato 2 mesi del parcheggio all'azzardo, praticamente c'è gente che metteva la macchina di traverso. Così. Allora devo postare le foto di come parcheggio io. Ah. E io ho parcheggiato tra 2 macchine in 60 centimetri. Grande. All'indietro, certo. Così, in mezzo. Allora loro erano là e io mi sono partito sul bracciapiede così. Ah, bello. Fantastico, puoi farlo con un doblò. E come sei sceso dopo? Quello è il problema. Sono sceso dopo dal motore, dal finestrino. Ha smontato il motore. No, all'hazard, appunto, dal finestrino. Potevo tentare di uscire da dietro, ma purtroppo la mia macchina è un cargo e c'ho le barre di protezione interna. Il cargo, ovviamente non diciamo né il modello né la targa, perché non me la ricordo, strana. Anche volendo. Ma ragazzi, c'è una cosa importantissima che dovete sapere, anzi che dovete dirmi voi. Che cos'è il macancosappo? Il cacchino? Il macancosappo, che cos'è? È un sapone di Caite. Oppure? Panda. Panda. È una cosa giapponese. E tu lo sai. È una cosa giapponese. È che non riesco a dire, è che non riesco a dire le parole. Macanco sapo. Allora ti spiego, è un sapone fatto con i macachi. No. Ma no. Fatto, ma non mi copiare, il sapone l'ho detto. Sformato sì, di ma macaco. È macaco. Sap, ma può darsi sap, che sia sì. Anche della resina. Sap. Può darsi della resina di qualche albero. No. Parcheggio impossibile fatto da una donna. Giapponese. Panda, non cercarlo. Secondo me è un movimento di quelli che fanno i cosi, gli ortopedici, per farti no, è di più. Smuovere un braccio. No, ma ne avrei bisogno. È la moda del momento in Giappone. Panda, aggiornati. Panda 2. 2 panda, 2. Vabbè, dai, è stato bravo sul Tanabata, quindi. La moda del momento in Giappone, dove i ragazzini si fanno delle foto in posizione da onda energetica e gli amici tipo saltano indietro facendo finta. Io ho capito. Colpiti dall'onda energetica, è bellissimo. Cioè un momento di amicizia in cui fai una foto un po' particolare, diciamo. E ci sono arrivati adesso. Sì, è una foto di 4-5 anni fa, dove facevo finta di sfondare una macchina. C'era una macchina tutta incidentata, sfondata. E c'ho sta foto praticamente dove io sono in posizione tipo gli sto tirando un pugno. Quindi alla fine questa. Queste foto sono molto particolari perché le foto che vengono fatte, i ragazzi sono anche in salto, oppure. Ma tu fino a 2 minuti fa non lo sapevo. No, aspetta, no, aspetta, il termine lo sapevo, ma conosco bene questo. Bella sto questo sistema, modo. Guarda che un arrampicatore giuro. Sociale, ma di quelli spaventosi. Signori, ho uno smartphone in mano. Ma non lo potete vedere, noi sì. No, vabbè, no, ma andremo è un arrampicatore sociale. Ma la cosa bella è che lui ha distrutto una macchina per fare sta foto. lo contesti con lui. E questi giapponesi che si buttano all'indietro facendo finta di Perché dovevi dargli il termine, cioè per fare una moda devi dare il termine esatto. Tipo, lo chiamavi. Tu che stai volendo, ma io non ho visto la foto. Magari hanno visto la foto, infatti. Lo chiamavi Makesacciu. Makesacciu. E diventava una moda nazionale fare la foto. La prossima foto che faccio la pubblichiamo. No, la registro proprio. Con il tiro d'autore. Con delle common scratch. Registro una foto. Assolutamente, assolutamente. Credit Commons, dai. Credit Commons. Sì, certo. Credit Commons. E adesso un momento topico, ragazzi. Molto topico. Molto. Soprattutto per l'uomo della strada che è da. Me ne hai parlato quanto? 6 mesi fa dello Stevia? Sì, Stevia Rebaudiana. Esatto, sconosciuta ai più, che è un dolcificante praticamente perfetto. È una pianta, da cui si estrae lo steviolide, che sarebbe la sostanza chimica che poi diventa un dolcificante, sì. Potentissimo. Senza calorie. Ed è sconosciuta. e sarebbe sconosciuta. Ce la conosce un sacco di gente, però è sconosciuta. E invece no. Come no? Perché è stata, anzi sta per uscire sul mercato, Coca-Cola Life. La Coca-Cola allo stevia. Sì. Dai, sorprenditi. Ma no, io sapevo che aveva quell'altra. La stanno facendo davvero? Eccola qua, Coca-Cola Life, che invece di dello zucchero usa la stevia, e quindi un dolcificante naturale coltivato in Sud America, dove avrà il suo esordio esattamente in Argentina, perché dice che là la stanno producendo. È una figata, io ho i semini a casa, ci ho fatto una piantina, ancora non è uscita. Ma è difficile da farla venire. È bellissimo. Cioè, la Coca-Cola, la cosa. È una cosa spettacolare. Con lo stevia. Quindi vuol dire che avevo ragione. Sì, no, ma avevi ragione, però la Coca-Cola è avanti. Cioè, nel senso. No, vabbè, io parlavo dell'Italia. Allora, la multinazionale. L'Italia, sì, la stessa. Come ad esempio potrei parlarti della. La situazione ormai si è buttata avanti. Maledetti, hai ragione. Prima usavano gli edulcoloranti, che però facevano male. Hanno sentito noi mentre ne parlavamo, hai visto? Sì, certo. Quindi toglieranno lo zucchero, però tutte le altre sostanze cancerogene resteranno. Ma farà sempre. È una goccia nell'oceano. Beh, già è tanto, perché la Coca-Cola la bevono tutti. Un po' come parlare del Kenaf, che ora te lo introduco, per la volta prossima ti istruisci. Ragazzi. E trovati il Kenaf con la scrappa, okay. Con la quindi, K, che è NAF. Quindi lasciamo in sospeso per lasciami la prossima volta un diritto Kenaf. Kenaf. Che esiste, non è nulla di illegale, non è nulla di illegale. Okay. Esiste, è in vendita, c'è una ditta che ha l'unica esclusiva produzione del Kenaf, l'unica in Italia, non si riesce a trovare nessun'altra parte purtroppo, perché la volevo acquistare io, e quindi è una pianta. Te lo dico prima, vuoi che ti do una coscienza un po'? No, lasciami. Ti lascio. Al mio Google. Ti lascio che una pianta alta 6 metri. Perfetto. Mi faccio il mio Google, la mia ricerchina. Sì. Ultima notizia, importantissima, tra l'altro, che si ricollega anche all'esperienza open source. Quando la vendono il Coca? Ah, penso che il prossimo mese sarà in Sud America, però. In Italia ancora per almeno 2 anni. Ma qui abbiamo un progetto da ancora meglio, dalla che è... bravo Andrea, abbiamo il volontario quando va a trovare la sua amica. Stanno incastrate, vi preoccupate. È un progetto importantissimo, almeno molto interessante, è 01 Lamp e i ragazzi di fattelo.com. Fattelo.com, un sito abbastanza un attimo. Che ha detto così sembra ma una cosa bellissima. Illegale. Allora loro che fanno? Ti danno questo progettino, sì, che tu ti scarichi, e con un cartone della pizza puoi fare una lampada. Una lampada che praticamente ripieghi il cartone della pizza col progettino che ti danno loro. Un metti una, sì, una specie di origami. Metti una il filo e hai fatto la 01 Lamp, una lampada molto moderna. E qua ho questa immagine spartana, nel senso buono del termine. Ecco, ora deve caricare il sito, quindi riempiamolo con una considerazione benevola di questa cosa. La lampada è open source perché non solo ti spiegano come farla da un cartone della pizza, quindi una cosa massimo riciclo, eccola qua. Massimo riciclo al, che è questa qua. Che figata! Se è davvero questa, è veramente è bella. È fatta con un cartone alla pizza. Ma non credo, sì. È fantastico! È una figata, lo voglio anch'io. Ah, sì, anche cosa bisogna fare per riprendi averla? Riprendi quei cartoni della pizza che abbiamo buttato. Cosa bisogna fare per averla? Allora, puoi scaricare il progetto dal sito fattelo.com, ovviamente, puoi anche dare i tuoi input per migliorarlo. Certo. In più i ragazzi, se vuoi, te la vendono già fatta. Oh, al costo di... mi sembra che sia 5 euro, ma devo andare a vedere. Vado per mangiarmi la pizza che mi ma... mangiano la pizza, se ma loro la ti pizza. Sì, sì, no, ma loro ti mandano il cartone con già il cavetto e la lampada a LED pronta per essere montata, quindi un minimo per supportare tutto. No, quindi non può essere una lampada molto forte, no? Il gusto possiamo della pizza? Scegliere noi il gusto della pizza con cui è impregnato il cartone? No, se te lo compri è un cartone novello, un cartone non può. Non ha senso. È un cartone libato. E non ha senso, perché deve sapere un po' di... Ordinavi una 4 formaggi, ogni tanto te la sniffavi. E allora dove sta il bello di fare le cose originali? Voglio dire. Ma poi loro fanno una cosa bellissima, che o te la vendono basica, tu la compri la 3, oppure la riempi tu della pizza. O metti tu il 5 euro della pizza e te la fai tu. Oppure tu puoi anche disegnare una nuova versione della lampada, mandarla a loro e loro la vendono tramite il loro sito. E mi danno i soldi a me. Quindi, e ti danno delle royalty a te sulla... Cioè? Delle, sì, un ricavo, una percentuale. Bello, inizio a fare lampade di cartone di pizza. Eccolo qua, è fatte personalizzate, vengono così. Quindi con una queste figata. Stampe particolari, con queste cose. Fantastico, da un cartone della pizza. Tratta. Colorigami. Che si ammazzano di pizza questi qua, però. Vabbè. Pizza è sempre. Sa cosa fanno. Di passatempo avranno mangiarsi tanta pizza. È una delle loro passioni. Quella, se fate lampade con le latine di Red Bull siete a cavallo con me. Abbiamo già la nostra versione 2.0. Red Bull Land. Esatto. Ma ragazzi, ora passiamo tra poco all'angolo della classifica, ma prima è Coming Up con la nostra età. La cena dei regini, ragazzi, avete cliccato www.ilbac.it? No, fatelo, è il momento giusto, villani codardi. Ilbac.it e cliccate la cena dei regini. proseguiamo la registrazione, anzi la puntata della cena, con l'angolo della classifica. La classifica questa settimana è 25 grandi problemi inglesi visti dagli americani, perché è un punto di vista molto particolare dell'essere inglese. Adesso andremo ad analizzarli. Allora, posizione numero 25: chiedersi se qualcuno vuole scagliarvi fuori dal finestrino quando uno sconosciuto si siede accanto a voi su un autobus vuoto. Cioè c'è un autobus completamente vuoto, uno è seduto dentro st'autobus e quello che entra successivamente a te, invece di andarsi a sedere in qualsiasi altro posto, si va a sedere esattamente a fianco a te. E là tu ti chiedi, vorrà uccidermi? No, io là gli dico, ma che cavolo fai? Perché sei regino, ma l'inglese lo fa. L'inglese pensa, vorrà uccidermi quest'uomo, vorrà scagliarmi fuori dal finestrino? Cioè proprio questo. Non solo quello, vabbè, si visto. Potrebbe è una strana fobia. Potrebbe rapinarmi? No. E già da questo capite perché ho voluto specificare gli inglesi visti dagli americani. Gli americani hanno un modo di vedere questi pratici. Però capita che comunque ti becchi il tizio un po' e dici, ma cosa? Sì. E allora 24. Sentendo che nella vostra vita manca eccitazione, tenere il biscotto inzuppato nel tè per un tempo irresponsabilmente lungo. Cioè questa cosa agli inglesi da, cioè, andare a... In inglese la frase suona molto ambigua. No, ma anche in regina, anche in italiano. Perché sai, zuppare un biscotto non ha un significato particolare. Per un tempo irresponsabilmente lungo. Irresponsabilmente lungo, cioè, mi fa pensare. Pensa tu. Un weekend di crudezza, capisci? Weekend alla Laguna Blu. Noi siamo esenti, non vediamo te. Mi perdoni. Può darsi perché loro, avendo il rito delle 5, può darsi che... siano infastiditi appunto del fatto che gli americani insomma vedono nel fatto di inzuppare, esatto, il biscotto, cercare di tenerlo integro, rischiare. Ora io ti dico una cosa che per la prossima settimana, perché potrebbe essere uno studio, vai, c'è un premio Nobel quasi perché un tipo di ricerca che hanno fatto per sapere quanto è il tempo medio dell'inzuppamento del biscotto dentro il tè prima che si rompa. Fantastico. Hanno dato proprio un premio per questo tipo di ricerca. E gli americani però hanno paura e gli inglesi lo tengono troppo a lungo, per questo hanno fatto quello studio. Quella si chiama invidia. È una sfida, è una sfida alla fisica, ragazzi, è una sfida alla fisica, capite? C'è sempre qualcosa in più nell'inzuppare il biscotto. su, adelante, cosa ridete? Cosa ridete? Secondo me hai scelto questa classifica solo per questo punto. Secondo me cosa? Pure. Cosa? Conoscendoti. Ma io? Questo è calunnioso. Vero, ma... Basta, numero 23. Lo tagliamo. Assicurarsi col vostro barbiere che l'acqua dello shampoo sia tiepida, malgrado il forte sospetto che scioglierà il vostro scalpo. Perché tu sai quando il barbiere ti mette lì liscio, prepara, com'è? Perfetto! Per il fumo, darsi per la differenza climatica che c'è tra l'America e l'Inghilterra. No, sono proprio pazzi loro. No. In effetti salva, ogni volta che mi hanno detto che l'acqua era giusta, bruciava sempre, non so perché. Forse per la questione sempre della differenza, perché per una persona che magari sta più a nord sente meno il calore, invece io ogni volta che mi hanno lavato i capelli l'acqua era sempre calda. Ma sai perché? La sensibilità comunque che c'è in testa è diversa da quella che c'è in mano. Certo, perché le mani sono più, magari hanno una pelle più spessa, meno sensibile, quindi quella che senti tiepida sulla testa, chiaro, magari è troppo caldo. Chiaro. Però bello, è vero che ti bruciano sempre. Poi dicono va bene. A loro fanno bene questa domanda, vedi? Allora è giusta questa domanda. Vedo che una classifica di inglesi fatta da americani e noi italiani cerchiamo di giustificarla. Certo. È fantastico questo, ma soprattutto quando ti vai a lavare i capelli dai barbieri, il must secondo me è ancora più dell'acqua calda, il rivolino d'acqua che ti cade nel sedere. Fastidioso. O lo sciampino che ti rimane qui sul ciglietto. Ma quello là lo fai così, il rivolino d'acqua te lo porti a casa. E anche così. Ma quando ti metti il tovagliolino addosso, tu le mani ce le di sotto, quindi cerchi di... Devo andare in video a casa. E poi la temperatura dell'acqua si sente col gomito. Vedi, lei conosce ancora meglio. Hai capito? Quindi il prossimo bambino vai. Com'è l'acqua? No, quando fanno i bagni ai bambini, non sentono di qui. Io lo dico. Prendono il bambino, lo inzuppano dalla parte della lo inzuppano il bambino. Non dite, inevitabilmente lungo. Non dite cose sconvenienti. Ma lui è vero, io ho detto inzuppiamo il bambino. Inzuppiamo il bambino per un tempo irresponsabilmente lungo. Non puoi mettere un bambino dentro l'acqua, prima devi sapere. Se no te lo cucini, no? Se no ti cucini il bambino. Lasci di guarda Agosto, no? Non fa pesante! Sono un po' di limone. Che mamma non lo sapevi? Faccio schierato via. Sua figlia l'ha lavata più volte. Sorvoliamo, basta. Vabbè. Siamo ancora al 23, io non so come andrà a finire. Al lavoro, scrivere buona fortuna senza punto esclamativo sul biglietto di saluti a un collega per sottolineare quanto non abbiate gradito la sua presenza in ufficio. Non mi ha messo il punto esclamativo, sei un bastardo. Inglese. Senza punto esclamativo. Punto esclamativo, capisci? No, figlio. E se gliene mette due, che succede? Da questo capite, cioè, la. Quanto sono pidicchiusi gli inglesi. Cioè, addirittura vanno per il punto esclamativo. Ah, non me l'ha messo, quindi. No. Incredibile. Meglio che non ti ecco perché non mi faceva mai le fotocopie quando gliele chiedevo. Quel caffè al sale che mi porta. Qua prossimo. E qua ci vorrebbe sottofondo di violino. Lasciate i commenti maschilisti all'uomo della strada che è anonimo. Dire davvero sto bene per avvisare che in realtà siete vicini ad un tracollo imminente. Questo lo fanno abitualmente loro. Ecco. Ah, l'ha detto lei. Eccolo là, brava. E vai, l'ha detto lei. Bravissima. Con la pari solidarietà. Ste femmine. 37,2 di febbre. Sto morendo. Mi porti l'ospedale. 37,2 di febbre. Ma è quella febbre che ti ammazza, alla lunga la senti. Alla lunga la senti. Sì, alla lunga. Sì, è come il biscotto nel tè. No, ma poi cioè, quello che si dice è mentalmente cosa si desidera. Perché si dice no, sto bene, tranquillo mentalmente, dai, stammi dietro, dimmi di più, coccolami, fammi il grattino qua che mi piace, ricordati queste cose, ti voglio salutare. Quella del grattino come ti è venuta in testa? Certo. Un giorno capirai. Con le dita. Andiamo avanti. Nei messaggi. No, si fa fare i grattini dalle femmine. È quello che stavo cercando di sottolineare io. Ho vaghi ricordi ma sono lontani ormai, quindi vaghi. Non c'è. No! Coccolalo, che no. Bisogno di coccole. No, grazie. Ragazzi, numero 15, questo è, penso sia mondiale. Voler avere le mani tagliate dopo aver salutato qualcuno che salutava in realtà qualcun altro alle vostre spalle. Ciao bello. Mamma mia, questo è terribile. Mi è capitato 2 settimane fa sul corso. Niente, incrocio un ragazzo, così conosco, l'ho salutato. Ciao, con la mano, da notte. Dietro di lui c'era un altro con cui volevo parlare, mi volevo avvicinare. Allora l'ho chiamato, si è girato l'altro che avevo salutato prima, si avvicina, oh, ciao bello, sì ma io, vabbè ormai, basta, è finita lì, no. E quell'altro mi è scappato, sinceramente. E non ti ha detto ma chi sei? Scusa ma tu chi sei? Vabbè. Sarebbe questa è un'altra storia, una lunga storia. Te immagini sul corso andiamo, mettiamo d'accordo due persone, tu cammini dietro uno che non conosco, io ciao, e questo, e tu prendi, passi oltre, vai e prendo te, ciao, come sta? Ma cosa che il corso per ti ricambi il saluto, perché molte volte sì, sì, io, ah, sì, ciao, come va, ciao. Numero 14, qua da vagliare singolarmente, sbagliando strada, non essere in grado di girarsi e camminare nella parte opposta senza aver preso il cellulare e averlo guardato severamente. Cioè, sbagli strada, non hai la, come dire, faccia tosta, tra virgolette, per mascherare un po' con gli altri il fatto che devi girare e tornare indietro, prendi il cellulare. Oh, no, sì, sì, sì. E torna. Lo faccio sempre. Andrea Inglese, abbiamo capito. Sono scozzese. Sei molto anglosassone, quindi. Cioè, ma mascheri così, sbagliare strada e tornare indietro. Yeah. E funziona. L'ho fatta io a lui. Ah, pure. Non ha fatto lei? Tu. No. Ma sì, quando c'è la seppia macchina là, che ti ho detto andiamo lì, che ci passa di lì, prende la cara. Invece no, ci hanno dovuto tornare indietro. E che c'entra il cellulare? Sbagliare strada. Abbiamo sbagliato strada. Sbagliato strada. Però è vero, cioè si fa questa sorta di rituale per nascondere agli altri che in verità si è sbagliato strada. Io torno indietro e basta. Ma una volta come si fa, tipo anni 80? Guardavi l'orologio. L'agenda. Vero. L'agenda. Ad esempio io quando guido con la macchina mi si parla, normalmente perdo le uscite. Dovevo accompagnare una ragazza a Scilla, sono arrivato fino a Palma. Tanto per dirti. Incredibile. Normalmente ti capita, quindi cioè, in macchina con te è un dramma. Sempre. È un dramma, se tu parli con me mi distrai prima dell'uscita, io. Più le volte che succede che. E se che tu non parli con lui, si distrae lo stesso. No, vabbè. Questo è sì, vero? Sì, sì. Si distrae lo stesso. Non ti dice l'uscita, questo lo sicuro. Zitto. Lisci qualche altra cosa, vabbè. Cosa lisci? Liscio che poi io lascio. Numero 13, e questo, beh. Una cosa abbastanza, ridefinire il tuo tragitto per tornare a casa dal lavoro per non rischiare di condividere il percorso con un tuo collega. Grazie, il collega rompi palle e tu non lo vuoi vedere, ritorna. Conferma. Daniele annuisce vistosamente. Non facciamo nomi, sono in anonimo io. Assolutamente. Solo Andrea che deve trasferirsi in Colombia. Giustamente. Può esporsi così. Smettete di prendermi per il culo oppure non vi porto la Coca-Cola Life. Life. Alla Coca-Cola. Life. Già che ci sei, portaci un cocco fresco. Cocco bello, cocco. 11, non riuscire a ricordare il nome di qualcuno e quindi non avere occasione di parlarci di nuovo. A noi non capita. A me sì. Che comunque parliamo. Sì. Mi dispiace, a me capita. Questa mi cosa. Dimentico di i nomi delle persone, ma non qua. Ma non fa niente perché tu. Non so loro come ti chiamano? Lo dobbiamo insegnare agli inglesi. Basta che dici bello e bella e hai risolto tutto. Ciao, Giuseppe, bello, come va? Giuseppe lui. Giuseppe lui. No, mi capita spesso chi di incontrare io sono lei. Antonio Bergoglio. Non mi ricordo il mio nome. Io sono Mario, piacere. Sei io vedo colleghi, mi dicono ciao Daniele, io gli faccio ciao, come stai? Sì, ci vediamo, sì, ciao. E non ho detto il nome, perché non me lo ricordo. Ma sì, alla ciao fine. Mario. Si improvvisa. Mario, 49. Ma ricordo. Cioè, colorato. Posso dire? Sì. No, dai, che entriamo in top 10. Oh, mia, ragazzi, mi fumo la pancia. Ma prepagnati là. Dai, basta. Aspettate, soccorrete quella donna. Non voglio responsabilità. Adelante, hombres. O victoria o muerte. 8. Panico. Quando in una paninoteca qualcuno ordina una combinazione di ripiani oscenamente strana. E questo capita più o meno Daniele. Quando noi andiamo dal greco. Calma, Daniele cosa? Dal greco la capita di tutto, effettivamente. La pizza, ma al panettiere compri un panino con cose dentro, no, da che? Però sì, la lambra lasciamo perdere. Una pizza con la roba oscena, no? C'era un mio amico una volta. Ci metti gli spinaci. E quindi? c'era un amico una volta ci metteva il panino marmellata all'albicocche ketchup, maionese e prosciutto. C'hai 15 ingredienti alla volta, ragazzi. No, io di meno. Abbiamo toccato un tasto, 5 al massimo, un tasto dolente. Ma va, sei tu che ci metti dentro il mais, il com'è? Quella è una schifezza. Il mais è buono. Mamma, dentro la pizza il mais, ma quando mai si è visto? Eh sì, perché l'uovo crudo che diventa cotto dentro il pizza. Vabbè, sorvoliamo. E si chiama Bismarck. Vabbè, abbiamo capito che tasto dolente, il ripieno osceno funziona. Abbiamo tutti qualcosa. Numero 7, psicosi secondo me, non di essere. Notare che qualcuno che ti cammina a poca distanza e fermarsi in una strada secondaria finché è fuori dalla vista. Questo succede, lo faccio io. Sì, più che altro faccio il semino. Prendo 4-5 deviazioni per vedere se mi seguono. Ma in macchina, se vede qualcuno dietro, ha la bagna di persecuzione. Parte, si picca. Cioè, fantastica questa. Sì, sì, sì. Perché, mi sembra che mi seguono. Cioè, ti faccio l'esempio, no, sto guidando. Ah. E guardo lo specchietto del retrovisore, no? E vedo una macchina, tipo a 15-20 metri. Ok. Tranquillo, io continuo a guidare. Poi, per necessità, devo girare a destra. Vedo che questi prendono il giro a destra. Gira a destra, quindi. Dico io, vabbè, può capitare che stanno. Prende a sinistra e questi sempre a sinistra. Allora lì, dopo la terza curva, dici che vai, questi ce l'hanno con me. Aspetta, allora io cammino dritto e questi sempre dritto. Prende a sinistra e mi trovo a sinistra, a destra, a sinistra, a destra. È fatta, ma sai perché facciamo così? Perché noi siamo abituati a quei telefilm americani hanno fatto tipo Chips, dove il tizio che stava lato guidatore, che ha una visibilità pessima di dietro, diceva tipo dopo 20 minuti: ah, c'è quello dietro una Camaro Black che ci sta seguendo da 10 minuti. Ma se tu sei lato passeggero, guarda, cioè stai guardando, ti garantisco che mi è capitato che una macchina mi abbia seguito, facevamo la stessa strada, fantastico, per 12 deviazioni circa, e poi abbiamo cambiato strada. Pensa che lui 12 deviazioni, ho fatto 12 deviazioni, e quello di dietro, per seminarlo. No, ma soprattutto quello di dietro che sta facendo il suo tragitto. Eri già in fase inseguimento da 12 deviazioni. Mi hai offerto anche un caffè alla fine, cioè no. Comunque forse l'unica spiegazione mia è perché mi stava seguendo da 12 deviazioni e che andavo in una determinata direzione. Forse non sapeva la se strada, invece fossi tornato indietro mi avrebbe subito scotato, perché lui stava andando per quella strada. È bello. Ecco, quindi quando fai le deviazioni non andare sempre in una direzione, cambia, torna indietro, tipo perdi i due traversi appena possibile, fare inversione ad U e tornare indietro. Ecco. Poi una volta a Gambari, in zona Gambari, ero con una 500, avevo con me una ragazza. Dovevo andare verso Gambari, mi sono perso in quelle stradine eccetera, e vedo dietro di me tipo 4-5 macchine tipo tipiche familiari che vanno la domenica a Gambari. A un certo punto vedevo che mi seguivano, in un gesto di, secondo me, estremo rispetto, mi fermo, scendo e dico: mi sono perso anch'io, se state seguendo me. Infatti due mi stavano seguendo perché erano convinti che io sapessi la strada. È stato fantastico. E poi ci siamo fatti un panino da Donna Yolanda. Donna Yolanda, che è un tipico rotto di Gambari, sta Gambari. Quello con la casettina di legno che si scende giù con la campana? No, Donna Yolanda è la casetta vicino al laghetto. Ah, okay. Questa tizia fa questi pannelli, una specie di McDonald's. E un'altra piccola chicca, poi cambi. Mi è capitato mentre mi seguivano, chiamiamolo così, che mi sono fermato per farli passare, si sono fermati pure loro. Quindi a quel punto, che cavolo, non pensi che l'hai ti stanno beccato, seguendo? L'hai beccato. No, non era, stavano facendo un'altra cosa, non so cosa. Fantastico. A quel punto non ti viene la psicosi. Ma è bellissimo. Non ti viene la psicosi, ti fermi e si fermano. Non stai in una casa con lui. Ti fermi e si fermano, non ti viene la psicosi un po'. E poi sono andati a raccogliere more, tipo fragolo. Numero 6, ricevere una mail che finisce con saluti e chiedervi cosa avete fatto per scatenare tanta rabbia. Sì, perché troppo formale, troppo... No, tu la leggi e dici perché ce l'ha con Bagnoli. È vero. Con saluti. Minchia, come vedi, poi vado sul suo. Tutto le psicosi in sì, mezzo. Sì, alle donne. Non fa effetto se non saluti. Ah boh, in generale cioè. Perché dovrebbe dare fastidio saluto? Comunque vedi stando da donna. Lo se- no, tu lo senti troppo. Cioè senti, formato. Sono la più donna di tutte le messe insieme, ok? Ok? Sta parlando sempre Mario. Non mi attento che ti spezzi l'unghia. Siamo il meglio di noi, ragazzi. No, questo. Saluti troppo formale, quindi sembra. Sembra quasi una forma di distacco verso. Mi capita spesso di sbagliare saluto. Sbagliare saluto? Invio distinti o cordiali, queste cose non le capisco. E certe okay. volte mando distinti quando no. non sono distinti, certe volte mando. No. Io me ne vado a educare alle 3 di notte dicendo buongiorno. Sì, anch'io. Lascia stare. Entro in un negozio, buonasera, è appena mattina. Vabbè, ma quello è il rimbambimento. Grazie, ma che hai detto da te un complimento. Numero 5, chiedere di assaggiare una birra, detestarla, ma ordinarne un'altra pinta per non far perdere tempo al barista. Ma che è sta cosa? In inglesi fanno questo, cioè addirittura per non fare di perdere tempo al barista l'assaggi. Buona. Ti piace, però dici me ne devo ancora, fantastica. È come la famosa, c'era cioè l'acqua Bertier da Fantozzi. Ah sì, me la ricordo! Quella scena bellissima dove lui gli danno da bere l'acqua Bertier, che era il tarocco dell'acqua Perrier che c'era ai tempi. Lui poteva bere, mi sembra, solo quella e la tracannò per tutta la serata e poi c'è una scenatica di un brutto colossale, però. Numero 4, raccontare una barzelletta per ingannare un'attesa e dove spiegare il finale per farla capire agli altri. E questo sono io. Anche a me. Hai capito? Volevo dire, va bene. No, perché non hai capito che l'americano dice questo. Numero 3, sentirsi obbligati a bere ferocemente l'ultimo giorno di vacanza, anche se il giorno successivo dovete andare a lavorare. Bere cosa? Bere, ubriacarsi. Acqua Berti. Ubriacarsi per obbligo? No, cioè come a dire, è l'ultimo giorno di vacanza, esagero, anche se domani alle 9 sarò uno zombie. Assurdo. Mamma mia. È un must. Dai, siamo non nella... puoi spiegare neanche un minuto di quello che mi resta. Siamo nella top 3. Appieno tutto quanto. Non lo farei. Numero 2. Lo fa tutte le volte. Cioè, non lo farei mai. L'ultimo, io non vado in vacanza. Li passo a riposare e non alzarmi manco dal letto perché poi devo tornare al lavoro. Pensa un po'. Mi becco sempre un viaggio io oggi torno al lavoro. Oggi in vacanza. Ok. Letto. Di comincio. Sofì. Numero 2, evitare emoticon preoccupanti, ma sembrare sarcastici nell'utilizzarne, che è un po' il discorso di prima. Non ho capito cosa devo evitare. Emoticon, cioè gli smile nei messaggi. Non ho capito cosa hai detto. Mail, chat, tutte cose che evitare le faccine. Thread. Sì. Quindi nel scrivere un emoticon, una faccina, cerchi di esprimere quello che... cioè lo stato che vuoi trasmettere. Sì. Quando non la utilizzi sembri sarcastico. Sì. Ma quando lo utilizzi una sbagliata anche, perché alla fine molte volte non l'ho più significato. Ad esempio ce n'è una che sembra un sorriso, a cui la vedono come un sorriso sarcastico, l'altra invece come un sorriso normale. Sì. Bello. Quindi spesso è anche il significato di anche la derisione potrebbe sembrare. Anche bella, tipo le canzoni metal, no, degli anni 80, letto al contrario. È un emoticon, letto al contrario è un messaggio satanico. Esatto, esatto. Un po' la lettura. Io invece ho visto un video in cui c'erano nelle canzoni death metal sataniche proprio, che al contrario avevano messaggi come non prendere freddo, metti la sciarpina. Ma è come quella di Elio che aveva fatto una canzone metal che se l'ascoltavi, che la prendevi al contrario, e ascoltandola al contrario era uguale alla prima prima di riportarla due volte. Chiarissimo. Cosa? Solo Elio poteva fare una cosa del genere. E tu potevi. Andiamo a provartela tu poi. Questa è come la numero. La numero 4. Racconterà un barzetto e poi doverla spiegare. Ecco. Va bene, ok. Comunque, numero 1, ragazzi. Rullo di tamburi. Bel drummer. Essere più felice della birra bevuta in aeroporto alle 7 del mattino che non di tutto il resto della vostra vacanza. Se fai una vacanza e non sei felice. Però quella birretta alle 7 del mattino. Okay. Panda, che se mi ricordo tutto questo? Alle 7 di mattina a stomaco digiuno. Sarebbe il nostro caffè, la birretta. Panda, non ricordi un certo hamburger grosso così di McDonald's? Perché loro fanno birra e poi caffè, sì. Fanno solo birra? No, il paragone sarebbe se gli inglesi la birra come gli italiani il caffè. Ah! Sì. E tu sei stato una settimana una domanda, in Marocco, hanno fatto però... il caffè schifoso, sei contento che alle 7 arrivi all'aeroporto di Catania e ti prendi il caffè. Ha ragione, sì, ma se lui ti prende il caffè sta bello felice, se uno si prende la birra ti rovina tutta la prima curva. Ecco perché la questione dell'aeroporto, perché nel precedente viaggio magari hanno bevuto una birra schifa. Però se io mi prendo un caffè la mattina alle 7 va tranquillo, se prendo una birra alle 7 va tutto dritto alla prima curva. C'è davvero questo contatto con la birra, con gli alcolici per gli inglesi? Cioè, forse la birra, sai, con gli alcolici. Ma la birra sicuramente. A questo punto, la birra è prima o dopo il viaggio? Prima. Dopo, in aeroporto. Prima. È perché dice dopo il resto della vacanza. Alla fine, quando arrivano in aeroporto. Io mi ricordo con Panda quando siamo arrivati a Roma, la mattina dopo alle 8:30-9 ci siamo buttati a McDonald's e ci siamo preso un paninazzo enorme. Fare colazione è stato bellissimo. Grazie a McDonald's con colesterolo a fare. Sono tornata io dalla Francia, no? Però sono arrivata a Genova. Allora, Genova già di suo il caffè. Come se mi fossi bevuta il caffè una volta. Sì, ma in Francia fanno mangiare con una cosa orribile. Mamma mia. Oh, mamma, appena sono arrivato a Genova il caffè. Hai detto wow, altro mondo, altro. Comunque ragazzi, questa è la nostra classifica. Adesso musica con General Union, The Time of Life. Thank you. ragazzi, era la cena dei Regini, adesso raccattiamo le nostre cose e torniamo a casa. Voi seguiteci visitando www.ilbac.it e cliccando la cena dei Regini. Prossimamente grandi novità anche per quanto riguarda il sito. Salutiamo tutti, vi siete divertiti? Continuiamo ancora! Continuiamo ancora, sì, Andrea. Ancora io non ho ricevuto l'assegno per parte delle mani. Dopo continuiamo ancora, tanto dopo è stata tutta una serata di imprevisti, di ritardi, infatti abbiamo anche. È tardissimo, però vabbè. Sì, però. È andata bene. Ragazzi, un saluto a tutti, a settimana prossima, ciao!